Il terzo anello. Ad alta voce. Piero Baldini legge Il piacere di Gabriele D'Annunzio. Lord Heathfield porse allo Sperelli il trattato di verberazione amatoria. Si accendeva sempre più ragionando di piaceri crudeli. Le tempie calve gli si invermigliavano e le vene della fronte gli si gonfiavano e la bocca gli si increspava un po' convulsa ad ogni tratto. E le mani odiose, gestivano con gesti brevi ma concitati, mentre i gomiti rimanevano rigidi, di una rigidezza paralitica. La bestia immonda, laida, feroce, appariva in lui senza più veli. Nell'immaginazione dello Sperelli sorgevano tutti gli orrori del libertinaggio inglese, le gesta dell'Armata Nera, della Black Army, su pei marciapiedi di Londra, la caccia implacabile alle vergini verdi, i lupanari di West End, le case eleganti di Anna Rosenberg, le camere segrete, ernetiche, imbottite dal pavimento al soffitto, ove si smorzano i gridi acuti che la tortura strappa alle vittime. «Mumps! Mumps! Siete solo?» Era la voce di Elena. Ella batteva piano a un degli usci. «Mumps!» Andrea trasalì. Tutto il sangue gli fece velo agli occhi, gli accese la fronte, gli mise negli orecchi un rombo, come se una vertigine improvvisa stesse per coglierlo. Una insurrezione di brutalità lo sconvolse. Gli attraversò lo spirito, nella luce di un lampo, una visione oscena. Gli passò nel cervello oscuramente un pensier criminoso. L'agitò per un attimo, non so che smania sanguinaria. In mezzo al turbamento portato in lui da quei libri, da quelle figure, dalle parole di quell'uomo, risaliva su dalle cieche profondità dell'essere lo stesso impeto istintivo che già egli aveva provato un giorno sul campo delle corse, dopo la vittoria contro il rutolo, tra le esalazioni acri del cavallo fumante. Il fantasma di un delitto d'amore lo tentò e si dileguò rapidissimo, nella luce di un lampo. Uccidere quell'uomo, prendere quella donna per violenza, appagare così la terribile cupidigia carnale, poi uccidersi. «Non sono solo», disse il marito senza aprir l'uscio. «Fra qualche minuto potrò condurvi nel salone il conte Sperelli, che è qui con me». Andrea avrebbe dato qualunque prezzo per sottrarsi al supplizio che l'aspettava, ed era attratto da quel supplizio nel tempo medesimo. Il suo sguardo anche una volta si levò alla parete rossa, verso il cupo quadro ove brillava la faccia esangue di Elena, dagli occhi seguaci, dalla bocca di Sibilla. Un fascino acuto e continuo emanava da quella immobilità imperiosa. Quel pallore unico dominava tragicamente tutta la rossa ombra della stanza, ed egli sentì, anche una volta, che la sua triste passione era immedicabile. Nel salone Elena lo guardò curiosamente, con un sorriso irritante. «Che facevate di là?» e la chiese pur sempre sorridendo al modo medesimo. «Vostro marito mi mostrava cimeli». «Ah!» Ella aveva la bocca sardonica, una cert'aria beffarda, un'irrision palese nella voce. Si adagiò sopra un largo divano coperto di un tappeto di bucara, amaranto, su cui languivano i cuscini pallidi e su cuscini le palme d'oro smorto. Si adagiò in un'attitudine molle, guardando Andrea di tra i lusinghevoli cigli, con quegli occhi che parevano come suffusi di un qualche olio purissimo e sottilissimo, e si mise a parlare di cose mondane, ma con una voce che penetrava fin nell'intime vene del giovane, come un fuoco invisibile. Due o tre volte Andrea sorprese lo sguardo scintillante di Lord Heathfield fisso sulla moglie, uno sguardo che gli parve carico di tutte le impurità e le infamie di ansi rimescolate. Quasi ad ogni frase Elena rideva di un riso irridente, con una strana felicità, non turbata dalla brama di quei due uomini che s'erano accesi insieme sulle figure dei libri osceni. Ancora il pensier criminoso attraversò lo spirito di Andrea nella luce di un lampo. Tutte le fibre gli tremarono. Quando Lord Heathfield si levò ed uscì, egli proruppe con la voce roca, afferrandole il polso, avvicinandosi a lei così da sfiorarla con l'alito veemente. «Io perdo la ragione, io divento folle, ho bisogno di te, Elena, ti voglio!»